Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Ciao, sono Giulia Scalona per Radio Antenna Migrante. Oggi venerdì 24 gennaio siamo alla stazione di Gianturco perché stiamo per raggiungere la sede della cooperativa sociale culturale italo-cinese Onlus, che si trova proprio a Gianturco. Abbiamo appuntamento con Anna Bruno, che è la referente dei servizi educativi, e non sappiamo bene cosa aspettarci. Lui ha il virus, quello che viene dalla Cina. Avevamo una gran voglia di parlare di Cina, visto il bombardamento mediatico di questi giorni e quello che più ci incuriosiva, il capodanno cinese. Inizierà l'anno del topo, inizia un nuovo ciclo, speriamo che sia un buon segnale rispetto all'anno bisestile che è iniziato un po' così. E le persone del posto conoscono la cooperativa sociale con Zong Xu Xei Axi. Non ce la faccio, perdonatemi. Buon ascolto. Allora, noi facciamo diverse attività, nel senso che l'attività principale che vedi oggi è quella del sostegno allo studio, affiancamento linguistico, semplificazione, facilitazione. Poi facciamo progetti nelle scuole per seguire ragazzi che frequentano le scuole italiane. E poi abbiamo i corsi di italiano e poi ci sono i corsi di inglese, corsi di chitarra, di pianoforte, di batteria, violino, musica, arte, facciamo pittura, calligrafia, arte classica, danza. La cooperativa ha 20 anni quest'anno. Ah, okay. Siamo nati a San Giuseppe Terzigno come zona, che è la zona vesuviana. Da 5 anni siamo anche su Napoli, prima stavamo solo nel Vesuviano. Siamo nati come associazione che si occupava di corsi di lingua italiana per adulti, perché l'immigrazione cinese di 20 anni fa era fatta soprattutto da adulti o da ragazzi appena 18enni, 20enni che si erano trasferiti magari dopo il diploma in Cina perché i loro genitori stavano qua. Quindi nasceva proprio l'esigenza di conoscere la lingua italiana per entrare immediatamente nel mercato del lavoro. Queste persone sono cresciute qua in Italia, si sono sposate, hanno avuto figli. Beh, parliamo di 20 anni 20 anni fa. Mm. I figli di queste persone, molti di questi bambini hanno fatto, sono stati 2-3 anni qua in Italia, sono nati in Italia. La maggior parte delle persone che vedi qua sono nate tutte in Italia. Dopo, al terzo anno di vita più o meno, sono stati portati in Cina. Sono cresciuti con i loro parenti, spesso nonni o parenti dei genitori, zii, insomma, e hanno frequentato le scuole elementari in Cina per una serie di motivi. Uno principale è quello che i genitori lavoravano, spesso lavoravano in fabbrica, quindi facevano questi turni molto lunghi, non avevano un posto dove abitare perché prima c'era questa abitudine di abitare nelle fabbriche. E quindi i bambini venivano mandati in condizioni, insomma, in una casa con dei parenti che li accudissero. E poi perché questo ancora oggi c'è ancora un po' la convinzione che la scuola elementare cinese formi di più rispetto alla scuola elementare italiana, perché è un po' l'inverso, cioè nel senso che noi con i bambini siamo un po' più dolci, poi li bastoniamo più verso le scuole medie e superiori. In Cina è diverso, i bambini delle elementari studiano, imparano, hanno una mole di lavoro molto forte, anche perché poi devono imparare il cinese. Questa lingua molto complicata, no? Quindi tanto studio, tanto lavoro, e quindi è dura. La scuola elementare in Cina è dura, poi media e superiore invece diventa meno dura, diciamo, rispetto. E quindi molti dei ragazzi hanno fatto la parte della scuola elementare in Cina e poi sono arrivati in Italia spesso a 10, 12, 13 anni. E ovviamente c'è stato questo periodo in cui c'erano tanti di questi ragazzi che arrivavano in Italia e bisognava offrire un servizio per questi ragazzi, perché purtroppo le scuole non hanno le competenze, le strutture, gli strumenti per da sole fare qualcosa per i ragazzi, e quindi nasce l'idea di mettere anche questo servizio all'interno della cooperativa. Ci sono una serie di corsi per adulti, tra i CPIA, insomma le varie attività per adulti ne sono. E invece la parte insomma per i ragazzi cioè, insomma, non c'era tanto, ci sembrava un vuoto da riempire e ci stiamo provando. Quante ragazze e ragazzi allora, riuscite a seguire durante l'anno, facendo proprio una media, in tutto abbiamo dicendo una parola nuova che ho imparato spannometricamente, ho imparato questa settimana. Però io mo devo capire pure che significa. No, quello non riuscirei neanche a spiegartelo. Però. Allora, noi abbiamo iscritti per l'affiancamento allo studio, quello che io chiamo affiancamento allo studio, quindi dopo scuola, se vogliamo semplificarlo, abbiamo tra le 90 e le 100 persone. Poi però la cooperativa il sabato e la domenica invece si occupa di tutto il resto di cui ti dicevo prima, quindi dallo studio della lingua cinese, perché loro studiano il cinese, non loro, ormai loro sono grandi, non ne hanno bisogno, ma i più piccoli studiano il cinese per continuare a mantenere, assolutamente, perché poi il cinese lo parli, vabbè, diciamo parlo il cinese, ma scriverlo è complicato, perché se non lo scrivi per tanto tempo lo dimentichi, tanto è vero che in Cina c'è quella famosa analfabetizzazione di ritorno, cioè i cinesi che ormai scrivono al computer mettendo le letterine sulla tastiera, molti dimenticano come si scrive. E quindi c'è questo problema che se il cinese non continui a scriverlo costantemente lo perdi. E quindi il sabato, ti dicevo, ci si alla cooperativa segue tantissimi ragazzi che insomma fanno i corsi di cinese, e poi c'è arte, musica, tutte quei le altre corsi cose. Che dicevi. E in totale tra la sede di Napoli e la sede di Terzigno, perché noi abbiamo due sedi, quella di Terzigno comunque è rimasta viva, seguiamo in media tra i 300-350 ragazzi ogni mese, insomma, più o meno come attività. Anche perché su Napoli ci sono anche altre associazioni, almeno un'altra, una o altre due, e poi forse anche un'altra o solo una. E invece sulla zona del Vesuviano al momento siamo ancora solo noi, perché questa cooperativa nasce, come ti dicevo, 20 anni fa dalla volontà del padre dell'attuale presidente responsabile della cooperativa, che un giorno va in questura per rinnovare il permesso di soggiorno non capendo la lingua italiana, l'impresario della questura non riesce a parlare con lui, prende il suo documento e glielo lancia, lo rimanda via. Lui è preso dalla rabbia, da non sapere come fare, decide di mettere su questa associazione e dire no, noi dobbiamo imparare l'italiano. E quindi nasce così, nasce proprio per un bisogno che è venuto dal basso. Quindi questa è, secondo me, stata la forza di questa cooperativa. Beh, che non è stata messa dall'alto, ma è cresciuta dal bisogno di qualcuno che ha detto no, effettivamente noi abbiamo bisogno di questa cosa. Un bel inizio, insomma, per quanto triste, no, però... Forte, su basi forti. E la cosa che poi ha permesso, secondo me, di crescere a questa cooperativa è stato il fatto che poi la figlia del presidente, del primo presidente, insomma l'attuale responsabile, ha saputo cogliere le varie difficoltà che cambiavano nel corso degli anni, cioè le varie necessità che la comunità cinese incontrava nel corso degli anni. E quindi i ragazzi che arrivano adesso, per esempio, un'altra delle cose che, sulla quale stiamo lavorando sono i bambini piccoli dai 3 ai 6 anni, perché negli asili pubblici non ci sono posti, lo sappiamo, sono pochi posti. Gli asili privati costano o comunque non sempre sono facilmente raggiungibili, e quindi l'idea è quella di avviare, ci stiamo provando in fase sperimentale, una sorta di asilo o comunque di centro per i piccoli, però italiano, cinese e inglese, per permettere ai bambini già piccoli di stare a contatto con tutte e tre le lingue. E come sta andando qua? Quindi nel frattempo è calato un silenzio... imbarazzanti, dico, un po' di noi in cooperativa qua seguiamo da lunedì al venerdì circa 100 ragazzi, cioè adesso chi stiamo disturbando qui in quest'aula? Questi sono i ragazzi che la lavagna più grande che io abbia mai visto in vita mia. Loro sono tutti ragazzi che frequentano le scuole superiori, terza media, primo, secondo, terzo anno, quarto quest'anno non ne abbiamo. Per esempio Federico, loro frequentano un istituto tecnico, fanno telecomunicazione, vero? Informatica. poi ci stanno licei artistici, lei frequenta il liceo artistico, poi c'è il musicale. Io ho una domanda tecnica, gli sms, i messaggi su WhatsApp come vengono scritti, in ideogrammi o in... Loro scrivono in ideogrammi. E come è possibile col telefono? Te lo faccio vedere. Grazie. Subito. Allora, apri WhatsApp, che ne so, ti devo mandare un messaggio, vai, te lo scrivo proprio a te così. Vai. Ti sto aspettando, io scrivo wo zhe deng ni ed esce la cosa e te lo mando. Okay. E quindi attraverso, insomma, il modo in cui tu lo leggi, videogramma, okay, scrivi sulla tastiera ed esce il videogramma. Perché quanti sono? Quindi c'è un numero comunque, cioè, videogrammi dici? Allora, l'HSK6 quanti ideogrammi sono? 5.000 ideogrammi, quindi un cinese medio-alto, diciamo, dovrebbe imparare circa 5.000 ideogrammi. 3.000 si conoscono in media come ideogrammi. Allora, io mi rendo conto che sono flussi di persone che sono arrivati qui, magari anche ormai da tanto tempo, e capita la stessa cosa anche in zone diverse della Campania, che ormai siamo alla terza, quarta generazione, non si parla neanche più di seconde generazioni ormai. Con Tony, preparandoci qua per venire a fare questa puntata, personalmente mi sono anche reso conto di quanto sono ignorante sulla Cina, e me la immagino come un continente alla fine. Cioè, per questo motivo qua è una nazione per cui io ho anche tanta confusione su come, su quali sono gli spazi geografici, su se è corretto o meno parlare di lingua cinese, di mandarino, di non so. Mi immagino che appunto ci sia tutto questo. Guarda, allora, la lingua ufficiale è una, è il putonghua o mandarino, come viene chiamato. I dialetti sono un'infinità di dialetti e molto molto diversi dalla lingua ufficiale. Ti faccio un esempio. Federico, mi aiuti a fare una cosa? Federico, ti avvicini magari. Dai, come si dice qua tu? Allora, sarebbe non mi piace studiare. Io te l'ho detto in putonghua, la lingua ufficiale. In Guangzhou qua, cioè la lingua della città di Guangzhou, che è poi la città dalla quale vengono la maggior parte dei cinesi di questa area. Ah, ok, questa è Guangzhou. È completamente diverso. Totalmente diverso. Quindi, allora, tra di loro in famiglia in genere parlano il Guangzhou qua, il dialetto, no? In genere, soprattutto le persone più anziane. Con noi ovviamente parlano la lingua ufficiale perché noi non lo conosciamo, il dialetto. E quindi loro si trovano sempre in questa doppia, no? Usano il dialetto, il putonghua e poi l'italiano e poi... Cioè voi fluttuate in un mare di altri suoni che sono tante lingue diverse, perché poi immagino che qua, come a Napoli, c'è l'italiano e c'è anche il dialetto napoletano, che già io e Tony che arriviamo da svariati chilometri di distanza non riusciamo magari neanche a... Certo, ed è così, è lo stesso, solo che la differenza un po' più grande è un po' come il sardo per l'italiano. Ah, ok, proprio un'altra... È proprio... Sì, anzi, loro si vantano, le persone del Zhejiang, di Guangzhou, si vantano del fatto che la lingua cinese forse la più antica è la vostra, vero? Si dice che forse la lingua più antica cinese viene proprio dall'area di Guangzhou, però è un vanto che si danno d'oro, che gli piace un po' vantarsi, no? E invece sì, mi dicevi che quindi le persone che sono qua da più tempo arrivano da... La maggior parte dei cinesi presenti in Italia vengono dalla regione Zhejiang, che è per farti capire un po' geograficamente in l'area. In Italia proprio? Sì, sì. È l'area un po' di fronte a Taiwan. Per okay, farti Taiwan un po' capire, attraversi di fronte a Taiwan c'è il Fujian, che è l'altra regione di provenienza. Sono le due queste le regioni di maggiore provenienza, Fujian e Zhejiang. Fujian di meno, Zhejiang la maggior parte dei cinesi, e soprattutto l'area di Wenzhou con i vari distretti, i vari villaggi. Come è distribuita, allora, la comunità cinese? La maggior parte della comunità, il primo nucleo di immigrazione cinese in Campania è stato nella zona del Vesuviano. Perché dove avevate prima la cooperativa? E parliamo però degli anni 80, parliamo già di tanto tempo fa, perché la maggior parte delle persone del distretto di Wenzhou comunque si occupano di tessile. è uno dei settori più forti. E infatti in Italia si sono stanziati a Prato, Modena, okay, dove c'erano un po' i distretti tessili italiani. E la stessa cosa è successo nel Vesuviano, perché era l'area in cui insomma c'erano fabbriche. Quindi in una prima fase le persone, diciamo i residenti i locali della zona vesuviana, hanno cominciato a vendere le loro aziende, i loro piccoli laboratori ai cinesi che si occupavano di questo settore. Nel tempo probabilmente la cosa è sfuggita di mano un po' a tutti, e quindi tutta la zona è quasi completamente, insomma il tessile ormai quasi completamente in mano a fabbriche cinesi, laboratori cinesi. La nuova, insomma, però il nuovo invece interesse dei lavoratori cinesi adesso invece nei centri commerciali, no? Questi ingrossi, la maggior parte di loro, chi sta qua da tanti anni, magari non so, i genitori dei nostri ragazzi, hanno fatto almeno una decina d'anni tra fabbriche, lavoro duro. Dopodiché hanno cercato di mettersi in proprio e quindi hanno avviato negozi all'ingrosso, questi negozi che si vedono in giro, negozietti in cui si vende tutto. Sì, vabbè, veramente. Poi hai notato magari che in giro avrei visto il parrucchiere, ci sono tutti gli altri servizi. Il ristorante, perché da questo punto di vista la comunità cinese cerca di essere molto autosufficiente, un po' per la lingua. Questa difficoltà di questo italiano così difficile, mannaccia. Ma invece il cinese è una passeggiata. Cioè. Quindi un po' per la lingua. Vabbè, io li assimilo tantissimo alla vecchia immigrazione italiana. Mm. Non so se c'è quella dei primi italiani che sono andati in America. No? L'altra cosa, pensavo questo, no? Perché poi pure negli Stati Uniti, esatto, no? Uno si immagina, come si chiama, Chinatown, Little Italy. Perché è proprio lo stesso processo. Allora, io ho un familiare che già sta in quel posto. Prima l'immigrazione clandestina era fortissima, ora ormai per fortuna insomma non è così facile, per cui io ho un familiare che si trova in quella zona, attraverso quel familiare riesco a ottenere un contratto, quindi un contratto di lavoro, quindi anche io mi sposto in quella zona, faccio qualche anno, chiamo la mia famiglia mi raggiunge, faccio ricongiungimento familiare e resto in quella zona. Okay. Relazioni, diciamo, di amicizia con i locali ci sono, però non sono ancora così tante. Stanno fiorendo. Ci sono delle piccole storie. Allora, c'era un'abitudine che ora è rimasta più solo nel vesuviano, nel napoletano un po' meno, che era quella dell'affido dei bambini, cioè i bambini piccoli nati, tipo appena nati, che non potevano essere mandati in Cina perché erano troppo piccoli, perché in Cina non avevano parenti, venivano affidati a famiglie italiane, a volte dalla mattina fino alla sera, a volte invece dal lunedì fino al venerdì, quindi dormivano con loro, mangiavano con loro. C'è ancora questo fenomeno in diminuzione, o sono affidi ovviamente illegali, nel senso che non sono, cioè sono un babysitteraggio, però diciamo a lungo termine. E con queste famiglie spesso si crea un rapporto proprio molto molto stretto, tanto è vero che alcuni ragazzi parlano della mamma italiana, del papà, la mamma cinese, il papà italiano, il papà cinese, perché il nonno italiano e il nonno cinese, perché si creano questi rapporti molto molto stretti. Perché è una cosa tipica del nostro territorio, in altre città succede molto poco. E quindi, come ti dicevo, poi in quella zona mi creo tutto quello che mi può servire per la mia autosufficienza. Ti dico, c'era addirittura la farmacia, appunto parrucchiere, addirittura le scuole guida si erano attrezzate con i manuali in cinese. No, questo sì, in una prima fase, poi immagino che adesso ci sono anche le università italiane che si sono aperte a... No? In parte ci sono cosa delle... intendi? Ma io ricordo dal punto dell'università di... a Padova, di alcuni posti per alcune facoltà di accesso limitato per cittadini cinesi al conservatorio. Se parliamo del conservatorio e dell'Accademia di Belle Arti è un'altra cosa. Ah, okay. Perché quello è un accordo tra il governo cinese e il, ora non mi ricordo l'ufficio che si occupa di Conservatorio Accademia di Belle Arti, però ci sono dei posti all'interno del progetto Marco Polo Turandot. Cioè questi ragazzi che fanno un anno di lingua prima, cioè arrivano in Italia, frequentano 10 mesi, che è poi il progetto che seguono anche lì all'Accademia della Lingua Italiana a Salerno, frequentano 10 mesi di corso di lingua italiana e dopo fanno l'accesso al conservatorio o all'Accademia di Belle Arti. Però non è tutte le università, sono queste due, insomma, questi due canali di inserimento che ultimamente tra l'altro stanno, i ragazzi insomma stanno avendo anche un po' più di difficoltà perché la questione della lingua ovviamente è diventata primaria, perché è successo fino a poco fa insomma che i ragazzi frequentavano il conservatorio, l'accademia senza conoscere l'italiano, quindi hanno fatto esami in maniera un po' più superficiale. I professori invece adesso stanno cominciando a richiedere giustamente una buona conoscenza della lingua italiana e quindi qualcosa dovrà essere rimodulato un po'. Ah vabbè, dai, questo può essere appunto una nuova. Ti posso dire che per esempio c'è un forte interesse però da parte del mondo cinese verso la cultura italiana, musicale, artistica, turistica ultimamente, fortunatamente anche molti dei loro genitori, no? Di queste persone che stanno da tanto tempo in Italia cominciano a vedere l'Italia anche come un posto dove lavoro importante, cioè io vengo qua per lavorare, non è che vengo qua per viaggiare, però dedico una parte del mio tempo anche a rilassare, a dedicare del tempo al viaggio, no? Stanno aumentando i cinesi che fanno vacanze, che vanno in viaggio. Tu dove sei andato ultimamente? Firenze. Ah, loro, giusto, loro durante le vacanze di Natale. Ah, per, quindi c'è turismo proprio tra interno. Ah, sì, okay. sì. Federico, tu invece sei andato pure in Cina da quando sei tornato dalle scuole elementari? Sei più andato poi in Cina? Sei ritornato? Sì, sono tornato qualche volta. Sei andato per il Capodanno qualche volta? No, mai. Ah, per il Capodanno non sei tornato mai? Perché a Cina sono Capodanno e qui in Italia devo andare a scuola. Eh beh sì, purtroppo sì, non sono sincronizzate bene le due. E quindi sei tornato in estate qualche volta? Sì. Finisce qui la prima parte del nostro racconto dedicato alla Cina e proseguiremo dopo con la seconda parte. Grazie ancora ad Anna Bruno e agli studenti del Centro Culturale Italo-Cinese, la cooperativa sociale Onlus che ci sta ospitando e alle quali stiamo dando un sacco di fastidio. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di IMPACT, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.